Ciao a tutti cari ascoltatori di Radio Big World, benvenuti in questa nuova puntata dei Monologhi Esteriori. Chi vi parla è sempre Elisa Elena Carollo, la vostra aspirante attrice di fiducia. Sono qui come ogni settimana per proporvi un monologo teatrale che forse può sembrare lontano dalla vostra vita quotidiana, ma vi farò vedere che non lo è così tanto. Questa settimana ho deciso di parlare della disabilità, perché il 3 dicembre è la giornata dedicata appunto alle persone con disabilità. E per fare questo ho deciso di chiamare con me un ospite. Io non vivo la disabilità in prima persona e per questo rischio di cadere nell'abilismo, che nel caso non lo sappiate, non lo sapevo neanch'io fino a qualche mese fa, è la discriminazione nei confronti delle persone che hanno una disabilità e più in generale il presupporre che tutte le persone abbiano un corpo abile. Ecco, non voglio rischiare di cadere in queste discriminazioni, seppur involontariamente, e non voglio nemmeno avere la presunzione di credere di sapere tutto su questo argomento che in realtà non conosco, non vivo in prima persona. Per questo ho invitato un ospite che mi è sembrata molto adatta, dato che è un'attrice, frequenta corsi di teatro da diversi anni e vive questo tema in prima persona. Si chiama Micaela Luppino, ha un blog di teatro anche lei, lo trovate su WordPress, si chiama Sogno Teatro e vi invito ad andare a visitarlo. È una ragazza normalissima per quello che lo conosco, solo che si muove in carrozzina. E sì, fa teatro, perché si può fare teatro anche in carrozzina. Se non ci credete, lei ve lo può dimostrare. Io l'ho vista recitare e ci riesce benissimo. Ecco, questa è una delle convinzioni errate che spesso nella nostra società viene trasmessa sulle persone con disabilità. Ci vengono sempre fatte figurare come delle persone che non hanno hobby, hanno una vita triste, a volte non hanno nemmeno amici o ne hanno molto pochi. Almeno se guardate un film, nella maggior parte delle volte la persona con disabilità sarà rappresentata così. Però se ne conoscete una nella vita reale, saprete che è una persona normale, che ha degli interessi, che ha degli amici, può avere addirittura delle relazioni amorose. Insomma, sopra la carrozzina c'è una persona. Incredibile? No, non credo che dovremmo considerarlo incredibile. Dovremmo considerarlo normale. Invece, spesso c'è questa forma di pietismo per le persone con disabilità che vengono sempre trattate come poverine, come sei stato sfortunato, oppure pregherò per te. Oppure addirittura vengono trattate come se fossero dei bambini piccoli, anche se sono degli adulti cresciuti, con dei buffetti sulle guance, delle pacchette sulla testa. Cose che al di sopra dei 5 anni d'età dovrebbero essere vietate dalla legge. Ah, e poi un altro degli stereotipi è che le persone con disabilità siano tutte delle anime buone, gentili, senza macchia. E invece sono delle persone, non sono dei santi. Sono delle persone normali, con un carattere, e addirittura possono esserci antipatiche, se il loro carattere ci sta antipatico. È proprio per questo che ho chiesto a Micaela di recitarci il suo monologo, per scardinare questi due stereotipi. Prima vi faccio una breve introduzione. Da dove viene questo monologo? Dallo spettacolo che ha rappresentato l'anno scorso con il Teatro dell'Armadillo a Rho. Lo spettacolo si chiama L'Anima Buona ed è uno spettacolo un po' particolare perché è interattivo, prevede la partecipazione del pubblico. La storia inizia con questi personaggi che si ritrovano nello stesso luogo perché sono stati chiamati da Mackie, un boss della mafia. Questo boss ha deciso che esaudirà il desiderio di una di queste persone che sono state chiamate e che hanno avuto a che fare con lui in vari modi. Quindi possiamo già dedurre che se hanno a che fare con un boss della mafia non sono esattamente degli stinchi di santo. Tutti vogliono qualcosa da Mackie. Una ragazzina vuole che lui la sposi, poi c'è chi vuole dei soldi, chi vuole protezione, chi vuole un lavoro. Il personaggio di Micaela non ha un nome, si fa chiamare la Rotellata. E che cosa vuole da Mackie? Vuole dei soldi per i suoi affari. Affari non del tutto onesti. Lo spettacolo si intitola L'anima buona, appunto perché è il pubblico che deve scegliere qual è l'anima buona tra tutti questi personaggi a cui Mackie dovrebbe concedere il desiderio. L'anima buona oppure la meno peggiore, perché come abbiamo detto non sono esattamente dei santi. Anzi, non lo sono proprio per niente. Hanno fatto delle cose illegali e a volte veramente deplorevoli. Però ognuno ce la racconterà dal suo punto di vista e riusciranno anche un po' a farci cambiare idea, a farci immedesimare nelle ragioni per cui l'hanno fatto e forse a farci passare dalla loro parte. Il personaggio di Micaela è uno di questi. Non è un'anima buona nel senso che ci immagineremmo del termine, però ora ci spiegherà la sua storia e perché ha fatto quello che ha fatto. Sarete voi che dovrete decidere, come il pubblico di questo spettacolo, se le sue ragioni giustificano o meno quello che ha fatto. Eccola qui, l'anello debole, quella handicappata, la Rotellata, come sghignazzavano i miei compagni di scuola. Ricordo che mi additavano come fossi un animale bizzarro e confabulavano quando passavo. Ricordo le insegnanti a cui tutto scorreva davanti agli occhi e loro niente, non muovevano un dito. Quelle figlie di puttana stavano dalla loro parte. E ricordo nitidamente quello che mi ha costretta a diventare ciò che sono ora. Mio padre, che tale non è mai stato. Ricordo quando, dopo il mio 18° compleanno, mi dice che sono una palla al piede, che per lui sono morta, che devo arrangiarmi da sola. E a lui non interessa più nulla. Che io vada pure delle modinare per sopravvivere. Direi che ho seguito alla lettera il suo consiglio, visto che anche la ridicola pensione di invalidità che ricevo è una vera elemosina. E proprio per questo motivo, e perché ricordo tutto minuziosamente, che oggi faccio ciò che la gente ha fatto con me. E dato che la gente mi crede una ritardata mentale solo perché sono in carrozzino, ora gli faccio vedere io di che cosa sono capace. Perché la vita non è buona, né tantomeno le persone. La vita è marcia e le persone sono bastarde. Le vedo le vostre espressioni dispiaciute? Non sono poi così diverse da quelle della gente che si fa il segno della croce e mi dice: la Madonna un giorno ti farà la grazia, abbi fiducia. Io, miei cari ipocriti, ho fiducia solo in me stessa e nelle mie straordinarie capacità di individuare i più deboli. La Madonna non serve a niente, la Madonna non ti ciba. Qui, signori miei, vige la legge del più forte. Siamo tutti lupi, ma io più di altri. Quindi indosso una maschera d'agnellino e mi servo di un sorriso dolce, un'espressione smarrita, un tono di voce piagnucolante. Piagnucolante, sì, esattamente come quello della gente quando mi sbatte in faccia il suo pietismo. E allora tanto vale cavalcarlo la compassione umana e volgerla a mio vantaggio. Farne un business, una professione. Funziona così. Ormai l'ho capito bene. Io chiedo dei soldi e la gente alla mia vista immediatamente si trasforma in una caricatura turbata. La fronte si aggrotta, gli occhi si fanno tristi, si piantano nei miei, la bocca si curva in una impercettibile smorfia. Poi fanno scivolare una monetina nel mio bicchierino, mi accarezzano fugacemente la guancia e sussurrano: «Oh, poverina!» Così ripuliscono l'anima con un atto di carità per questa giovane donna che tutti infantilizzano sistematicamente. Come se io non avessi opinioni e desideri, come se io avessi bisogno di qualcuno che, con fare maestrino, mi dica come devo comportarmi e cosa devo pensare. Mentre la gente continua ad aggiungere soldi nel mio bicchierino, io li ho già fregati tutti! Tutti quanti! Poveri sciocchi! E a chi mi accusa di sfruttare la mia condizione, io rispondo: sono stata costretta ad usare il cervello, visto che le gambe non mi funzionano. Ringraziate mio padre! Ma forse, signori, forse voi siete diversi. Forse voi siete disposti a vedere in me la persona che sono e non la povera rotellata da accudire. Se è così, allora io non chiederò soldi, non a voi, ma il vostro voto. Votate per me, signori, votate per me. Io da me che voglio solo i capitali di partenza per avviare la mia attività. Per il resto mi arrangerò da sola, come ho sempre fatto. Questa è la storia che la rotellata aveva da raccontarci. Voi che ne pensate? Secondo voi è un'anima buona oppure no? È giustificata a sfruttare le persone per tornaconto personale? È giustificata dal fatto che le persone esterne non fanno altro che compatirla e lei, stufa, sfrutta questa pietà che le viene dall'esterno per i suoi fini? Secondo me non è che sia proprio buona. Però devo dire che se fossi continuamente compatita a questi livelli, anch'io mi stancherei. E forse un pochettino la giustifico. Infatti io durante lo spettacolo avevo votato per lei. Ringrazio ancora Micaela per essere stata con me e per aver recitato questo monologo, che tra l'altro ha scritto lei e il personaggio è stato creato tutto da lei. Con l'aiuto dell'insegnante del laboratorio teatrale, però è in gran parte opera sua, quindi facciamoli i complimenti, direi. Ovviamente non ho detto neanche un quarto di quello che si potrebbe dire sul tema della disabilità, ho trattato solo un pezzettino anche perché io non ne so così tanto. Mi sto informando, ma non mi sento ancora abbastanza esperta da parlarne in modo più esteso. Ho voluto fornirvi un pezzettino su cui riflettere. Se volete informarvi un po' di più e avere un'altra opinione vista dall'interno del problema, vi consiglio di visitare il blog Witty Wheels, che tradotto dall'inglese sarebbe Ruote spiritose. Il sottotitolo è Due sorelle in carrozzina e infatti è scritto da due sorelle, Maria Chiara ed Elena Paolini, che raccontano le loro esperienze quotidiane e cercano di farci capire il punto di vista di chi deve vivere in questa società con una disabilità, cosa che diventa difficile perché la vita è fatta di scale e invece si potrebbe mettere qualche rampa in più per garantire l'accessibilità anche a chi si sposta in carrozzina. Per oggi è tutto, spero di avervi dato uno spunto di riflessione su cui continuare. Se vi è piaciuta questa puntata, vi invito a recuperare quelle precedenti che trovate nella playlist di SoundCloud e di ascoltarmi anche la settimana prossima, sempre qui il mercoledì alle 20:30 su Radio Big World.